La signorina Rubi è in collegamento con noi, buonasera. Buonasera. Come sta? Sto bene. Tempestata di telefonate? Ah, abbastanza. Senta, ci vuole chiarire qualche cosa? 5 minuti e poi la lasciamo. No, io ho detto anche al suo collega che io volevo dire semplicemente solo una cosa. Sì, mi dica. Una mia dichiarazione è che sono amareggiata e delusa del fatto che tantissime persone che mi hanno aiutata senza un tornaconto e senza un doppio fine si siano trovate coinvolte in una situazione così manipolata, non so, dai mass media o da chi, però questa cosa mi fa veramente rimanere molto male. Chi l'ha aiutata? Quando lei dice le persone che mi hanno aiutato, chi? Berlusconi l'ha aiutata? Sì, parlo solo di lui. In che modo l'ha aiutata? Basta, ciao. In che modo l'ha aiutata? Vabbè, insomma, succede anche questo. Beh, complimenti però, eh? Sì, ma insomma, adesso, in radio è complicato, vedi, perché poi le persone non possono correggere. Più semplice per i giornali, no? Vabbè, ma lasciamo perdere adesso no, questo. No, però hai fatto sentire per primo la voce della donna del momento.